Allora, niente. Innanzitutto, benvenuti a tutti e a tutte. Seconda serata della rassegna libri caratteri resistenti. Stasera ci sarà la presentazione appunto di Selva Varengo, Rivoluzione ecologica. E adesso vorrei fare una breve introduzione, non tanto al libro, ma un po' a quello che appunto sarà. Qualcuno di voi ha già partecipato alla prima serata, quindi è sensibile alle foglie. Adesso stasera ci ritroviamo qua. Niente, tutte le serate che ci saranno durante l'anno, ad arrivare fino a giugno, verranno registrate, quindi sarà possibile riascoltarle man mano, specialmente per quelle serate che magari sono anche impegnative, lunghe. E, niente, quindi su Scatola Nera si potrà riascoltare tutte le serate. Niente, la rassegna diciamo che è nata un po' come la volontà del gruppo che si occupava dello spazio qua sotto della libreria in Foscia Pledo, che da qualche mese, diciamo quasi da un anno, ha ripreso un po' a vivere. E niente, quindi ci siamo ritrovati, abbiamo deciso di creare questa rassegna, questo programma a lungo termine e appunto di cercare di dare una certa costanza. Tutto quello che sono le serate che ci saranno durante l'anno le potete trovare sul volantino che trovate qua sul tavolo e altrimenti su internet o sui giornali, visto che escono anche degli annunci sul giornale, qualche riga sul giornale che presenta le varie serate. Una cosa che vorrei dire, appunto, durante tutte queste serate chiaramente c'è anche un aspetto finanziario, quindi per autofinanziarci abbiamo creato dei segnalibri della rassegna, dove nella parte posteriore del segnalibro si trova il programma e che sono qua in vendita a 3-5 franchi a dipendenza delle possibilità di ognuno, e che però è molto importante per noi, diciamo, per poter avere tutti gli autori durante queste serate. Non ho molto altro da aggiungere, nel senso che altre sono le attività che ci saranno qua al Molino oltre la rassegna libri, quindi ci sarà in settimana, e il mercoledì e il venerdì c'è il LIP, Laboratorio di Informatica Popolare. Anche questo, abbiamo qua il programma e potete trovare altre informazioni su internet, sul sito del Molino chiaramente. Forse una cosa, tutte le serate abbiamo stabilito le varie serate arrivare fino a giugno, evidentemente non è una cosa così facile, perché gli autori hanno degli impegni, quindi stabilire una data a giugno è molto difficile, quindi è importante continuare a guardare e capire se ci sono dei cambiamenti. Noi cercheremo di farlo sapere il prima possibile, però è possibile che alcune date cambieranno, e quindi di seguire un po' la cosa. Se qualcuno ha la possibilità di distribuire i volantini o comunque di far girare la voce rispetto alla rassegna, ben venga. Se invece non c'è la possibilità, prendetevi il volantino, che è molto bello, e guardatevelo con cura, perché le serate sono veramente belle. E niente, poi per il resto godetevi la serata. Grazie. Bene. Selva, ti presenti da te. Mi presento da me. Ciao a tutti, allora io sono qui per presentare questo libro che ho scritto su Bookchin, che ho portato qua insieme ad altri un po' di altri libri, se volete poi guardarli. E questo libro nasce un po' dalla mia tesi di laurea, però è stato poi rielaborato per renderlo, insomma, un testo fruibile a tutti, e nasce con il tentativo di dare una panoramica di quello che è il pensiero di Bookchin, e soprattutto per fornire uno strumento a chi non lo conosce, a chi non è mai entrato in contatto con i suoi testi, o a chi magari, avendone letto anche semplicemente uno solo, non ha però poi quello che è un panorama generale del suo pensiero. Suppongo che non tutti conosciamo Bookchin, per cui facevo magari una piccola introduzione sul suo pensiero, su chi era, ma soprattutto su cosa ha scritto, che è la parte che a me più interessa, e poi... Cosa hai studiato, scusa? Filosofia. Grazie. E poi magari ne discutiamo tutti insieme, se ognuno... Storia della filosofia politica, però. Allora, Murray Bookchin è innanzitutto uno statunitense, però ha origini russe, i suoi nonni erano russi, quindi lui dice che è cresciuto molto con questo mito della Russia e i racconti che gli venivano fatti dai nonni. È nato nel 21 ed è morto 3 anni fa, per cui una figura molto recente che ha affrontato più o meno tutte le problematiche del Novecento, soprattutto le problematiche legate alle questioni ecologiche ed ambientali. È molto importante innanzitutto perché è uno dei primi che ha affrontato le questioni ecologiche e ambientali. Il suo primo articolo sulla questione è del 52, per cui molto prima che di ecologia, che di ambientalismo e via dicendo si parlasse a gran voce come succede oggi, dove più o meno tutti hanno un minimo interesse e sensibilità di vario tipo, magari anche solo commerciale, piuttosto che attenzione ai rifiuti e via dicendo, ma tutti più o meno hanno almeno la parola entrata come discorso. Basta ricordare che ad esempio abbiamo un ex presidente degli Stati Uniti come Al Gore che addirittura ha fatto un documentario sull'ecologia, per cui è una questione molto diffusa. Lui è stato tra i primi, il suo libro è del 62, invece il suo primo testo, ha quindi preceduto tutta una serie di autori che poi si sono occupati negli anni 60 e 70 delle questioni ecologiche ed ambientali, come magari qualcuno di voi conosce la Rachel Carson con il suo testo La primavera silenziosa, un testo molto importante, ma che viene dopo Bookchin. Quindi è proprio tra i primi a segnalare questa situazione, questo problema incombente. Un problema che lui dagli anni 50 vede come un problema imminente, il problema della questione ecologica, ovvero il problema della difficoltà dell'essere umano a inserirsi in modo armonioso nella natura e quindi il problema del cattivo rapporto che ha l'essere umano con gli altri esseri non umani e con l'ambiente che lo circonda. Un cattivo rapporto che lo porta ad una situazione che Bookchin individua di crisi imminente, ovvero una situazione che, se si protrarrà a lungo nel tempo in questo modo, ci porterà inevitabilmente a quello che lui riterrà essere inevitabile, appunto un disastro ecologico che non permetterà più la sopravvivenza dell'essere umano, ma non solo, sulla Terra. Dicendo questo, uno potrebbe pensare che propone quindi una visione catastrofica, nettamente pessimista di quello che è il futuro degli esseri umani e non solo. Ma non è così, perché Bookchin ha una grande fiducia in realtà in quello che è l'individuo, in quello che è l'umanità. Una grande fiducia che fa sì che lui sostenga la possibilità di reagire a quella che è la situazione odierna e la possibilità quindi di uscire dalla crisi. Adesso cercherò di spiegarvi brevemente come propone questo. Innanzitutto, una cosa che non vi ho detto, la sua formulazione base, cioè le parole che meglio racchiudono quello che è il suo pensiero, è il concetto di ecologia sociale, ovvero mette insieme un aspetto ecologico con un aspetto appunto sociale, quindi più prettamente umano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per Bookchin la questione ecologica è strettamente legata alla questione sociale. Egli ritiene che se noi non interveniamo da un punto di vista sociale, quindi da un punto di vista della società umana, non possiamo risolvere quella che è la problematica ambientale ed ecologica. Ovvero, secondo Bookchin, il rapporto che l'essere umano ha con la natura e con gli altri esseri viventi è un rapporto di sopraffazione ed è un rapporto di dominio. Questo rapporto di dominio e deriva da una mentalità che l'essere umano ha, in qualche modo, non tutti, ma che comunque in qualche modo ci è arrivata con l'educazione, con la formazione, che è una mentalità di dominio, di sopraffazione nei confronti del prossimo. Ovvero questo schema di dominio dell'uomo sull'altro viene proiettato, secondo Bookchin, anche nei confronti della natura, nei confronti degli altri esseri, sempre attraverso una forma di dominio e di sfruttamento. È il primo a formulare questa cosa, adesso viene ripresa abbastanza, è entrata soprattutto in diversi discorsi di ecologia radicale, è passato come discorso, però lui è il primo a dire questo, quindi è importante, i suoi testi sono importanti da questo punto di vista. E quindi ritiene che se noi non lavoriamo da un punto di vista sociale non possiamo risolvere quella che è la situazione attuale, perché appunto è questo schema di gerarchia, questo schema di dominio che l'essere umano ha nei confronti del più debole, che fa sì che caratterizzi ogni diversità come in forma gerarchica, considerando questo superiore e questo inferiore, e quindi considera in questo modo l'animale, la natura, ma anche chi è diverso da lui in modo inferiore, e quindi lo utilizza come mezzo e opera uno sfruttamento nei confronti di queste forme di vita. Quindi il lavoro che dobbiamo fare, secondo Bookchin, è un lavoro di distruzione di questa mentalità gerarchica, di questa mentalità di dominio. Un lavoro che va fatto a livello di società, ovvero è necessario, secondo Bookchin, la creazione di una nuova società, una società che lui chiama società ecologica, ecologica nel senso che deve avere una serie di caratteristiche che poi cercherò di spiegarvi. E, oltre a un lavoro sulla società, il lavoro che deve, secondo Bookchin, ognuno di noi deve fare è un lavoro sull'individuo, quindi è un processo autoeducativo e educativo nei confronti del prossimo, un lavoro interno, perché non si tratta appunto di una questione semplicemente istituzionale, di classi o via dicendo, ma si tratta proprio di una mentalità che ci appartiene in qualche modo e da cui noi dobbiamo uscire, perché se non usciamo da questa mentalità non riusciremo a superare questa situazione che ci si presta davanti. Per cui è un lavoro che va fatto con un cambiamento di morale, un cambiamento di prospettiva. Bookchin parla di una morale etica, ovvero di una morale che si rapporti all'altro in modo diverso, non in modo gerarchico appunto, ma con un riconoscimento della differenza, un'accettazione di quella che è la differenza, un cambiamento di mentalità, quindi un cambiamento ad esempio dei nostri rapporti economici, che non devono essere più basati su rapporti di tipo capitalistico, rapporti di sopraffazione, ma un'economia che lui chiama economia morale, basata sulla complementarietà, sullo scambio reciproco, sul mutuo appoggio e il mutuo sostegno. E si tratta quindi tutta di una serie di cambiamenti che devono essere fatti. Questo perché Bookchin, a differenza di altri autori che si sono occupati poi negli anni di ecologia, ritiene che non è l'essere umano in quanto tale che è in qualche modo colpevole del disastro ecologico, cioè non è la specie umana come specie umana, ma è il processo evolutivo che ha coinvolto l'essere umano, che l'ha portato a sviluppare una logica gerarchica, a sviluppare una società di tipo autoritario, di tipo gerarchico, che appunto ha rotto il rapporto armonioso con la natura. Lui dice: la società non è che è stata una cosa negativa all'interno del mondo naturale, fa parte dell'evoluzione naturale. Il problema è la direzione che la società ha preso e la mentalità che si è inserita in questa società. Il problema sono i rapporti gerarchici di forza che si sono instaurati in questa società. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è nella società stessa, non è il rapporto tra la società e la natura, ma è più all'interno della società. Quindi, come dicevo, bisogna cambiare società. Bisogna cambiare società, quindi bisogna adottare un nuovo tipo di politica, ad esempio, che non sarà più la politica rappresentativa che abbiamo oggi sotto gli occhi, ma una politica di base, ovvero una politica autogestita dove ognuno come singolo prende parte al processo decisionale, ognuno ha le competenze, perché senza competenze l'autogestione diventa impossibile, per cui ognuno ha in qualche modo le competenze almeno base per poter partecipare al processo decisionale, così che si attua appunto una democrazia di base, una democrazia partecipativa che coinvolge tutti in maniera orizzontale. I rapporti devono cambiare. Quando parla di gerarchia, Bookchin ci tiene a parlare di gerarchia proprio per dire che si tratta di una questione che va oltre l'assetto istituzionale attuale, ad esempio, ma lui dice: anche se avessimo distrutto lo Stato, anche se avessimo abolito tutte le classi, potrebbero lo stesso esserci dei rapporti gerarchici di dominio. Basta pensare ai rapporti gerarchici magari tra il più vecchio e il più giovane, oppure tra l'uomo e la donna. Quindi una serie di rapporti gerarchici potrebbero rimanere, bisogna stare molto attenti, bisogna fare un lavoro in questo senso, quindi un lavoro in senso gerarchico più generale, non solo basato sulle istituzioni o sulle realtà economiche presenti. Certo è che la società capitalistica attuale è un po' l'apice per Bookchin della società gerarchica, è la rappresentazione massima di quella che è stato lo sviluppo della società gerarchica. A suo parere la società originariamente era di tipo diverso, era una società che lui chiama organica, cioè una società armoniosa in cui tutti i rapporti erano orizzontali, in cui i vari individui si relazionavano in modo orizzontale. Secondo lui è solo con l'evolversi della società, con lo sviluppo di una società di tipo patriarcale e poi via dicendo con una situazione di sviluppo di tipo gerarchico legato all'età o magari legato allo sviluppo di una classe sacerdotale, si è man mano strutturata questa forma di dominio che permane fino a oggi e che anzi oggi è giunta in qualche modo all'apice. Quindi è un lavoro di distruzione di tutto questo processo mentale anche che è portato allo sviluppo del dominio, è un lavoro di, appunto, di cambio di politica, come vi dicevo, l'adozione di una politica di base, quindi di una democrazia di base basata su assemblee appunto in cui le decisioni possibilmente vengono prese all'unanimità. Però Bookchin in questo senso, ed è una cosa su cui io ad esempio un po' non concordo con lui dice: possiamo anche adottare una maggioranza, l'importanza è che comunque tutti siamo coinvolti e quindi che tutti sono partecipi di questa assemblea. Per fare questo lui ipotizza quello che viene definito municipalismo libertario, e il municipalismo libertario è appunto una costituzione di piccole comunità in cui si adotta questa pratica della democrazia diretta che si ispira un po' a quella che era la democrazia ateniese. Però la democrazia ateniese ovviamente aveva dei limiti molto evidenti, molto conosciuti, innanzitutto col fatto che identificava i cittadini solo in una certa parte della popolazione, la popolazione maschile, la popolazione benestante, la popolazione libera. Lui esclude tutti questi aspetti e dice che deve essere chiaramente un'assemblea che coinvolge tutti coloro che abitano in questa comunità. Una comunità quindi che si autogestisce, che si autoregola, ma che non deve essere isolata dal resto delle comunità. Molto importante nel pensiero di Bookchin è sottolineare il fatto che non basta crearsi la propria comunità felice al di fuori del mondo e pensare di aver risolto la propria vita e di risolvere tutto. Lui dice: l'importante è che queste comunità si creino una confederazione tra loro, una rete che si estenda lo sempre più possibile, che quindi aumentino i rapporti con gli altri in modo da diventare una dimensione sempre più collettiva. Perché se il cambio non è collettivo e non è della società intera, il cambio non ci sarà in qualche modo. Per quanto riguarda i rapporti con la tecnologia, Bookchin ad esempio ritiene, contrariamente ad altri pensatori dell'ecologia radicale che magari ipotizzano un neoprimitivismo, lui ha una visione della tecnologia diversa, ritiene che la tecnologia sia un mezzo a disposizione dell'essere umano, cioè che non abbia una sua vita propria ma dipende dai mezzi e dai fini per cui viene utilizzata. Per questo è un problema di cambiamento degli scopi per cui la tecnologia si sviluppa, è un problema di società, sempre per tornare al discorso prima, ovvero cambiando la società e pensando che appunto gli scopi dell'umanità sono diversi, gli scopi della comunità sono diversi, la tecnologia prenderà altre direzioni che non andranno più quindi a sfruttare la natura, a sfruttare gli altri esseri, e non entreranno più in contraddizione con essa. Queste comunità appunto, dicevo, tra loro devono essere confederate, così confederandosi dovranno man mano erodere secondo lui il potere statale centrale, ma dovranno crearsi delle piccole comunità decentrate. Il decentralismo ha un ruolo importante nel pensiero di Bookchin. È importante anche il fatto che lui sottolinea che si tratta di un decentralismo più istituzionale che fisico, ovvero non è il problema di decentralizzare realmente fisicamente le comunità, perché è molto, da questo punto di vista è molto realistico, forse molto lucido, dice: a oggi ci sono grandi città, è impossibile che pensiamo in breve tempo di smembrarle, per cui deve essere un decentramento più istituzionale con la creazione di piccole assemblee in cui, come dicevo, il potere decisivo è distribuito a livello assembleare, quindi è collettivo, e quindi è più importante la creazione di piccoli nuclei decisionali di assemblee in cui tutti si conoscono piuttosto che un decentramento fisico che sarà raggiungibile solo in molto tempo. Non è che non è auspicabile, ma è un percorso molto lungo. Quindi, come dicevo, un cambiamento di politica, un cambiamento di mentalità, un cambiamento di etica, un cambiamento della visione del rapporto con la tecnologia, un cambiamento globale in qualche modo a 360 gradi. E senza di questo, lui dice, la catastrofe sarà inevitabile. Per cui anche se il percorso è difficile, anche se ci saranno ostacoli, anche se non sappiamo bene in che direzione andiamo perché non sappiamo le nuove generazioni che arriveranno come saranno, in ogni caso è un percorso che dobbiamo fare, altrimenti appunto la situazione attuale è devastante e appunto la visione è altrimenti è nettamente pessimistica. Cos'è che secondo me, da un mio punto di vista, è molto interessante di questo discorso, del motivo per cui ho fatto un libro di questo tipo? Perché penso che veramente come oggi sia impossibile ignorare la questione ecologica. È una questione che non si può più relegare solo a livello di associazioni ambientalistiche che si occupano così di fare piccole riforme magari o piccoli interventi legislativi, ma è una questione che diventa centrale e che va, a mio parere, legata a quella che invece è una questione sociale, che anche questa è assolutamente importante e fondamentale da affrontare. E secondo me uno dei meriti di Bookchin è di aver appunto unito queste due questioni e aver stabilito come non si possa avere una giustizia ecologica senza una giustizia sociale e viceversa. Questo è un po' il quadro proprio breve, a grandi linee, di quello che è il suo pensiero. Adesso mi piacerebbe di più se ci sono magari curiosità, oppure se ognuno dice quello che pensa di questa cosa e riusciamo a fare un po' di dibattito.